siamo formati nel 2004. Una moto di aggregazione perché semplicemente perché veniva dalla canzone della banda De Rione, un gruppo che ci piaceva parecchio a tutti e tre i membri originari del gruppo, e ci è piaciuto quello come nome. Ci siamo formati nel 2004, quando abbiamo fatto il primo concerto a Bracciano, dalle parti nostre, e poi con cambi di formazione abbiamo aggiunto un'altra chitarra al posto di Puccio, che canta solamente, e niente, siamo arrivati fino ad oggi cambiando un po' di formazioni. Dalle parti nostre, Anguillara, c'avevamo altri gruppi punk. Io suonavo con i Divergenza, Puccio pure suonava con i Divergenza, con un altro gruppo che si chiamava gli Altapunk, e David, il bassista, suonava con un gruppo che si chiamava Circon Chips. E comunque sempre dal punk, abbiamo fatto sempre quello, sin da quando abbiamo 16 anni fino adesso, sempre soltanto punk. Io c'ho avuto un altro gruppo ska, tutto mi chiama, per il resto tutto punk. Gruppo siamo io e Puccio come sottocultura skinhead, David il bassista non ha niente di definito comunque, e Rockabilly Carpo alla chitarra. E come scena musicale comunque ci piace parecchio a tutti la musica oi e street punk, anche comunque street rock, rockabilly, ska e reggae come in linea di massima, insomma.